È arrivato Milanalino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Le 7:21 minuti, siamo qui per la lettura dei giornali, lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Forza, andiamo in questo venerdì. È venerdì! Eccolo. Urliamolo là. Tutti insieme, Milan! È venerdì! Ma io non l'ho urlato comunque. Venerdì 30 giugno per la precisione, intanto le aperture dei quotidiani, Il Sole 24 Ore, tagli al cuneo piano per 300.000 giovani. Il governo vuole dimezzare al 15% i contributi per i neoassunti under 35. Questa è l'apertura, mentre il Corriere della Sera sceglie di aprire sulla questione del Cardinal Pell. Il caso Pell scuote il Vaticano, cardinale incriminato per abusi sessuali in Australia. Lui si difende dicendo falsità dagli anni 70. Mentre l'immigrazione è ancora il tema dominante per gli altri quotidiani. Gentiloni all'Unione Europea, non lasciateci soli, così apre Repubblica. Mentre il Messaggero, no di Macron, ultimatum dell'Italia. La Stampa, aiuti sui migranti o vincono i populisti. Queste sono le parole di Gentiloni. Per Libero, chiudete i porti e che sia finita. È il titolo di prima pagina. Il Giornale, altro che porte chiuse, dentro altri 5.000. Il Manifesto invece mette una foto dei responsabili dell'Unione Europea, cioè il vertice di Berlino con Macron, la Merkel, c'è anche Gentiloni, il titolo è Mare Vostrum, un po' il senso di scaricabarile da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia. Queste alcune delle aperture, ne vedremo altre. Voglio però partire proprio dalla vicenda che coinvolge il Cardinal Pell e coinvolge le alte sfere vaticane, visto che il Cardinal Pell, australiano, è il numero 3 del Vaticano, di fatto. Pell in Australia per difendersi. Questo è il titolo dell'articolo di pagina 2 del vaticanista Luigi Accattoli. Giornata di festa e di dramma quella di ieri in Vaticano. Subito prima che Francesco celebrasse in piazza la festa dei Santi Pietro e Paolo, il cardinal di Curia George Pell, rinviato a giudizio in Australia per abusi sessuali, ha annunciato che avrebbe preso un periodo di congedo in accordo col Papa e sarebbe tornato in patria per rispondere alle accuse definite da lui totalmente false. 76 anni. Dal comunicato vaticano si deduce che il Papa non gli ha chiesto di dimettersi da prefetto della segreteria per l'economia, ma ha concordato con lui che darà piena collaborazione all'autorità giudiziaria. E Repubblica, col vaticanista Paolo Rodari a pagina 3, racconta anche il retroscena della caduta dell'alto prelato. Una caduta di un prelato che coi suoi metodi aveva diviso la curia romana. Intanto la telefonata, il telefono di Francesco che è suonato a notte fonda l'altro ieri, dall'altra parte della cornetta il cardinal Pell che gli ha comunicato le notizie provenienti dall'Australia. È arrivato il momento di lasciare Roma, gli ha detto. Il 18 luglio infatti dovrà presentarsi a Melbourne in tribunale per difendersi dall'accusa di aver commesso abusi sessuali su minori. Papa Bergoglio non ha esitato un istante, gli ha dato il suo benestare a partire e lo ha congedato fino a data da destinarsi. Oltretevere raccontano così l'epilogo di una vicenda che da troppi mesi pesa come un macigno sulla curia romana e sul pontificato. Tra l'altro il cardinal Pell e le sue riforme economiche, racconta sia Paolo Rodari ma racconta anche Massimo Franco sul Corriere della Sera, non sono mai state gradite dall'ala italiana del Vaticano. Nessuno è colpevole fino a prova contraria, questa è la filosofia sulle accuse di pedofilia, ma nello stesso tempo nessuno può godere in virtù dell'incarico che ricopre di alcuna impunità, continua ancora Rodari su Repubblica. Valeva per la vicenda del lattico di Tarcisio Bertone, vale oggi che un'indagine esterna è aperta sul cardinale prefetto della segreteria per l'economia. E appunto sulle divergenze dell'operato del cardinal Pell, anche Massimo Franco a pagina 3 del Corriere della Sera racconta Intanto ricordate, settimana scorsa l'abbiamo letto in rassegna stampa, è già la seconda persona chiave nel settore finanze del Vaticano che esce di scena dopo Libero Milone, saltato revisore generale dei conti della Santa Sede e ben sponsorizzato dal Cardinal Pell. Ora tocca appunto allo stesso Pell, che ha usato la mano pesante per imporre la superiorità del sistema giuridico anglosassone su un mondo che conosceva poco e che presto lo ha rifiutato. Alcune dichiarazioni, come quando disse: non voglio più casi come quello di Michele Sindone e Roberto Calvi, associando la criminalità finanziaria al Vaticano italiano, fecero crescere i malumori da parte dei cardinali italiani. Si ricordò ironicamente che l'americano Paul Marcinkus, simbolo del malaffare pasticcione ai tempi di Giovanni Paolo II, non era certo di Viterbo. Insomma, un cardinal Pell che comunque non era neanche ben voluto per le sue opere all'interno della finanza vaticana. Ora però per lui le accuse sono di ben altro tipo e deve risponderne in Australia, anche se le accuse, lui dice, totalmente infondate, sono di diversi decenni fa. In ogni caso, lasciamo questa vicenda. Noi oggi approfondiremo dopo le 9 invece un'altra vicenda che davvero spacca le coscienze, divide, crea anche molta ansia, perché raccontare la fine di questo piccolo di 10 mesi, Charlie Gard, che oggi in Inghilterra per volere dei medici e contro il parere dei genitori dovrà morire, perché è affetto da una patologia gravissima senza cura. Ci sono 16 casi al mondo e i medici, andando davanti a tutti i tribunali, hanno testimoniato che più si va avanti nei giorni e più questo piccolo bambino soffrirà. Il destino è una morte certa. I genitori si sono opposti, sono arrivati fino alla Corte dei diritti umani, ma che le ha dato torto però. Ora dicono: siamo rimasti soli con il nostro bambino, non possiamo più salvarlo, nel senso che oggi verrà staccata di fatto la macchina che lo tiene in vita. Oggi a Charlie sarà staccata la spina, il titolo di pagina 21 del Corriere della Sera. I genitori del neonato dicono: noi siamo stati lasciati soli, volevamo portarlo negli Stati Uniti per una terapia sperimentale, i medici si sono opposti, i giudici pure, e quindi oggi morirà. E tutti i giornali dedicano una pagina a questo tema. Per Avvenire è addirittura il titolo di apertura, di prima pagina: Charlie senza scienza e senza più speranza, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo verrà eseguita oggi, i medici dell'ospedale di Londra, dove è ricoverato da ottobre, sederanno Charlie per poi staccare la macchina che gli consente di respirare. Il piccolo di 10 mesi, affetto da una rarissima anomalia dei mitocondri che l'ha reso gravemente disabile, morirà soffocato. Indignazione globale, scrive Avvenire, per una decisione clinica e giuridica che non considera la supplica dei genitori di tentare una terapia negli Stati Uniti o comunque di lasciar morire Charlie della sua malattia. Interviene anche il cardinal Bassetti, che dice: ogni azione che pone fine a una vita è una falsa concezione della libertà. Comunque la pensiate su un caso che ha spaccato e ha diviso non solo l'opinione pubblica, non solo in Gran Bretagna. Oggi veramente ci sono paginate e dibattiti, interventi di bioeticisti, interventi anche di pensatori, di filosofi, che si interrogano su dove sia il limite, su chi debba decidere, su chi possa decidere. Beh, insomma, oggi ci sono tanti articoli, ne parleremo dalle 9 alle 9.30, approfondiremo questa questione. E questo invece è l'articolo che mi fa vedere la giornata. Cosa è successo? Protagonista la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che, come scrive Francesco Kramer sul Giornale a pagina 7, l'abbiamo sentita anche prima in audio, elimina un papà in aula. Elimina perché? Perché è successo che Laura Boldrini ha fatto gli auguri, giustamente, all'onorevole Celeste Costantino, diventata mamma, ma ha detto: facciamo gli auguri alla mamma e alla bambina. E al che è iniziato il subbuglio. Il padre e il padre, dicono alcuni deputati. Come? Come? Dice Boldrini. Scusate, il padre non è parte in causa. La figlia è stata fatta dalla mamma. Che voglio dire? Papà! Papà di tutta Italia! Sì, è vero, è vero, è vero. Le compagne, le mamme, le donne fanno il 99,99% porta della gravidanza, la portano avanti loro, anzi forse il 100% della gravidanza, però almeno ci volete concedere quello 0,01% che vogliamo definirlo come vicinanza, affetto, mano sulla spalla, forza, dai che ce la fai. Sì, lo so, è quasi nulla, quasi nulla, quasi nulla, però Boldrini proprio nulla, nulla, zero, no, dai, qualcosina piccolina, infinitesimale, anche i papà la fanno. No, la Boldrini elimina un papà in aula. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il più ganzo dell'informazione. Alle 7:36 minuti, grazie caro ascoltatore. Allora, tema migrazione, tema migranti. Signori, chiacchiere, questa è la verità, chiacchiere, come sempre chiacchiere. Perché al vertice di Berlino la solidarietà di Macron è stata data con una postilla. Con una postilla, solidarietà solo per il tema rifugiati, ma non per i migranti economici. Aperta parentesi, l'80% di quelli che arrivano in Italia sono migranti economici, quindi è una solidarietà molto ridotta, che poi tradotto vuol dire se voi pensate che a Ventimiglia li facciamo passare, vi attaccate, cari italiani. Però l'eroica Italia è stata elogiata da Angela Merkel, da Juncker. Io credo che l'Italia non voglia essere considerata eroica, voglia semplicemente essere considerata parte dell'Unione Europea e quindi trattata come Stato dell'Unione Europea. Comunque, leggete Carlo Marroni, migranti, l'Italia chiede fatti, Unione Europea divisa. Pagina 3 del Sole 24 Ore. L'Italia vuole risposte concrete sul fronte dei migranti dagli altri paesi europei. Nei giorni in cui scoppia una nuova emergenza di sbarchi dal Mediterraneo, l'immigrazione è stata messa dall'Italia al centro dell'incontro di Berlino tra i capi di Stato e Governo nell'incontro preparatorio del G20 di Amburgo della prossima settimana. Siamo di fronte a numeri crescenti che alla lunga potrebbero mettere a dura prova il nostro sistema di accoglienza. Abbiamo internazionalizzato le operazioni di salvataggio, ma l'accoglienza resta di un paese solo. Questo ci mette pressione, ma noi abbiamo un aspetto umanitario di rispetto delle leggi e lo confermeremo. Non violiamo le regole o vogliamo rinunciare a un atteggiamento umanitario. Siamo sotto pressione. Queste le parole di Paolo Gentiloni. Angela Merkel assicura vicinanza all'Italia. E guardate, la Germania è forse la più stretta alleata su questo, Il presidente Macron si distanzia sui migranti economici e dal presidente della Commissione europea Juncker arriva un altro riconoscimento all'Italia. Da molto tempo non possiamo abbandonare né l'Italia né la Grecia. Insieme dobbiamo compiere sforzi per sostenere queste due nazioni che sono eroiche. Eroiche. Va bene. Ci fregeremo del titolo di eroi che ci è stato dato da Juncker. Grazie, signor Juncker. Siamo fieri e orgogliosi di essere eroi. Vabbè, queste le chiacchiere. Il titolo di pagina 5 del Corriere della Sera è Solidali ma non sui migranti economici. La posizione è quella di Macron, presidente francese. Fiorenza Sarzanini, a pagina 6 del Corriere, parla e scrive delle possibili strategie ora dell'Italia. La trattativa italiana su ricollocamenti e fondi per la Libia. C'è una scadenza fissata dall'Italia. Mercoledì prossimo a Tallinn, in Estonia, si riuniranno i ministri europei di interno e giustizia. Se entro quel giorno non arriveranno risposte dall'Unione Europea sulla gestione dell'emergenza migranti, l'Italia è pronta a far scattare il primo blocco navale. Nessun annuncio ufficiale, ma la dichiarazione del presidente del Consiglio Gentiloni, che si aspetta impegni concreti in quella sede, fa ben comprendere quale sia la strategia pianificata dal governo. In realtà pare improbabile che 7 giorni siano sufficienti per convincere gli stati dell'Unione Europea a fornire collaborazione. Dunque, è possibile che Roma voglia tentare un'azione di forza proprio per misurare le reazioni a livello internazionale, ma anche la tenuta interna. Quello che fallisce è la relocation, cioè la prima richiesta dell'Italia a Bruxelles. La relocation approvata 2 anni fa, che si è rivelata un fallimento. Il patto del settembre 2015 prevedeva la redistribuzione nell'arco di 2 anni di 40.000 richiedenti asilo giunti in Italia e Grecia. Al termine quasi scaduto, dal nostro paese sono partiti appena 7.281 profughi, compresi 642 minori. Ecco perché uno degli impegni che l'Italia vorrebbe far rispettare è l'immediato completamento per trasferire gli altri 13.000 di quell'accordo. Poi i finanziamenti. L'elenco preparato da Palazzo Chigi in coordinamento con il Ministero dell'Interno e già consegnato al Commissario per gli Affari Interni dell'Unione Europea prevede l'assegnazione di oltre 300 milioni di euro per finanziare interventi in Libia. È il fronte che viene impegnato in prima persona il Ministro dell'Interno Minniti. Questa è la trattativa. Intanto si fa sapere che anche la questione dei porti chiusi, che Libero oggi invoca in prima pagina col titolo "Chiudete i porti e che sia finita", è una questione, mettiamola così, non fattibile, una fake news, come scrive oggi il Fatto Quotidiano. Non si può fare. Giampiero Calapà racconta, pagina 13, che il diritto internazionale impedisce la chiusura dei porti. L'unica strada possibile è quella del blocco navale, appunto, utilizzando la forza per impedire l'accesso alle navi non gradite. Ma che si fa? Cioè, voi ve lo immaginate, una nave carica di migranti al largo di un porto, comunque nei pressi di un porto, il divieto a entrare, cosa fanno le persone in nave? Cosa facciamo? Rimangono lì giorni, mesi, anni, muoiono di inedia, cosa, cioè, rendiamoci conto. E infatti il vice ministro agli esteri Mario Giro, intervistato proprio dal Fatto Quotidiano, dice: non possiamo chiudere i porti, non possiamo vietare gli approdi italiani. Eccole qui le altre chiacchiere. Dunque, la chiusura dei porti, la normativa internazionale, dice il vice ministro intervistato da Luciano Cerasa, ci impedisce di chiudere i porti, però puoi aprirne altri. Perché devono venire tutti in Italia? Questa è la domanda alla quale abbiamo cercato di dare una risposta ieri. Perché appunto devono venire in Italia? Perché non vanno in Tunisia? Perché non vanno in Spagna? Perché non vanno in Grecia? Perché non vanno a Malta? Rispondo così al fenomeno che mi ha detto: Malta è piccola. Lo so anch'io che Malta ha 420.000 abitanti. Vorrà dire che invece di 10.000 migranti potranno accoglierne 300. Fenomeno. No, le proporzioni basta studiarle. Non chiediamo a Malta di accoglierne 100.000, ma neanche zero. Come Malta ne ha accolti? Zero. E infatti oggi La Stampa racconta ancora con Nicolò Zancan: da Malta non solo accolti 0 migranti, la beffa di Malta. La nave regalata da Roma a Malta porta i profughi da noi. Cioè Malta utilizza una nave che gli abbiamo dato in generosa concessione. Eccola qua, la grande beffa di Malta. Pagina 3. Sull'isola nessuno sbarco in 4 anni. Sono piccoli. Nessuno sbarco. E utilizzano la P62... a scaricare 417 migranti a Messina. Il pattugliatore regalato dal governo italiano a Malta, proprio quello che Malta usa per portare in Italia chiunque venga soccorso in mezzo al mare. E visto che gli altri porti più vicini hanno già lavoro per altri sbarchi, Porto Empedocle, Pozzallo, Augusta, Catania, la nave maltese ha allungato la navigazione fino a Messina. Questo sul fronte immigrazione. Meno male che c'è chi ci può risolvere tutto. Mauro Meazza, buongiorno. Ma buongiorno, caro eroico Milan. Okay. Anche tu sei felice, eh? Eroe Meazza. Sono eroico, anche io sono un po' eroico. Tu sei più eroico, però diciamo la verità. Caro Alessandro, io ti voglio segnalare, vorrei riportarti invece sulle questioni, come dire, del calendario, che è, perché oggi e domani sono due giornate, dillo tu per favore, dillo tu. Decisive. Oh, bravissimo, bravissimo. Perché, per quale motivo? Allora, perché oggi naturalmente si paga gli acconti e anche il saldo del 2016, tutte le indicazioni, le ultime indicazioni del caso su norme e tributi religiosamente da leggere, ma poi domani è una giornatona vera, perché parte la nuova Agenzia delle Entrate e Riscossione che sostituisce Equitalia ufficialmente il 1 luglio, e poi c'è lo split payment. Oh, ti sei preparato sullo split payment? Non hai studiato un accidente come al tuo solito, va bene, lavativo, però sappi che su norme e tributi anche oggi ti diamo delle indicazioni, soprattutto per quanto riguarda i fornitori di queste circa 29.000 aziende, enti della pubblica amministrazione, che sono da qui in poi obbligate, cioè da domani in poi obbligate allo split payment insieme ai loro fornitori. Va bene, però guarda, non tutto sta fermo, quindi tutte le cose cambiano, anche il DDL concorrenza, come apprenderai dalle prime pagine sulle 24 ore, ha ripreso il cammino. In fondo è lì che gira solo dal 2015, più o meno dall'aprile del 2015, perciò sappi che l'hanno modificato ancora un po'. Adesso ritorna in Senato, vediamo se prima dell'estate è la volta buona. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore nelle prime pagine, non andare in norme e tributi, anche se poi religiosamente ci devi andare. Certo. Ti ricordo che domani con il Sole 24 Ore c'è Plus, dedicato specialmente ad azionisti e obbligazionisti delle banche venete, quindi che cosa possono fare a loro tutela. E poi, tu che guardi sempre tutti questi social, Facebook e così via, sei anche su Facebook. Li utilizzo, ma li guardo poco. Tutto spettinato. Ecco, ti consiglierei di guardare WhatsApp. Va bene. No, ma sai perché? Perché il Tribunale di Catania, va detto primo grado, siamo al Tribunale di Catania, quindi vedremo, ha detto... Però, tutto sommato, si può anche comunicare un licenziamento via WhatsApp. Ah, allora sei licenziato, così. Fossi in te il WhatsApp, lo guarderei abbastanza. Allora, adesso fammi mettere chi non è iscritto. A questo meccanismo di comunicazione, ecco, magari ci potrebbe fare un pensierino. E tutto ciò premesso, altro non ti vuol dire, come diceva il poeta. Ecco qua, sei licenziato. Ecco, mi stai mandando il WhatsApp? Va bene. Ti arriva. Poi puoi prendere le tue cose, ti lasciamo un quarto d'ora per assettare un po' i cassetti, la scrivania. Va bene, sei molto caro, anzi ti dirò di più, caro Alessandro, sei eroico. E a questo punto, cari eroici ascoltatori, traffico! Alessandro Milan, la patata bollente dell'informazione. Ma allora, Silvio Berlusconi rilascia un'intervista, due pagine, intervistato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, è un po' la notizia politica del giorno, per il resto c'è psicodramma PD, puntata da telenovela numero 8322, ma Silvio Berlusconi, che anche lui fa una serie di interviste incredibili, ieri al TG5, una settimana fa al TG5, tutte le TV, la 7, ho aperto il forno a microonde, stamattina è uscito Berlusconi che mi doveva comunicare qualcosa. C'è un solo centrodestra con una forte componente liberale e moderata, ripartire dal sistema tedesco. Questo è il titolo dell'intervista di Francesco Verderami a Berlusconi. Rieccomi. Il baricentro lo decideranno gli elettori col voto, ma per il momento le amministrative hanno scelto noi, a dimostrazione che un centrodestra con una forte componente liberale, moderata, ancorata al PPE, e questi sono messaggi per Salvini, è in grado di esprimere idee giuste per vincere. E poi Berlusconi lancia questo nuovo programma, il bellissimo Albero della Libertà, che abbiamo preparato, preparazione grafica di un programma che sarà rivoluzionario. Le radici sono i nostri valori cristiani e i principi liberali, i rami rappresentano i problemi del paese, i frutti sono le nostre proposte per superarli. Ne citerò due: la flat tax, l'imposta piatta uguale per tutti, famiglie, imprese, al livello più basso possibile, con una quota esente per i primi 12.000 euro in modo da assicurare la progressività, e poi il reddito di dignità. Di fronte alle cifre drammatiche sulla povertà in Italia, serve assicurare un reddito minimo dignitoso. Proprio nei giorni scorsi uno dei più prestigiosi think tank italiani, l'Istituto Bruno Leoni, ha avanzato in questa materia proposte molto simili alle nostre. Un'altra conferma del fatto che siamo sulla strada giusta. Poi fa insomma una lunga intervista di 2 pagine appunto. Guiderò io la campagna elettorale, non esistono delfini miei, esistevano i delfini solo nelle monarchie e non sempre riuscivano a salire sul trono. Alle elezioni ci sarò comunque, anche se la Corte di Strasburgo non desse il suo verdetto in tempo utile per la mia riabilitazione politica, sarò comunque in campagna elettorale. Questo Silvio Berlusconi. Mentre Chiara Appendino e alle prese con le tante denunce e anche l'iscrizione al registro degli indagati come sindaco di Torino, mi aspettavo un calo di popolarità dopo i fatti di Piazza San Carlo, una ferita per la città anche per me. Ci sono state notti migliori, ma anche notti in cui ho dormito di più e meglio. Chiara Appendino sotto assedio, come racconta la stampa, ma dice: che coraggio, sono accusata da chi ha lasciato solo guai a Torino. Va bene, 2 notizie di cronaca che mi hanno colpito. La prima, una sentenza di Venezia. Un giudice, lo racconta sia La Verità, il titolo è il giudice che sdogana la stepchild, si inventa le quote etero per i bimbi, sia il Corriere della Sera. Un giudice ha concesso l'adozione alla compagna donna di una donna mamma, quindi una coppia omosessuale, una delle due donne la mamma naturale e l'altra è stata anche lei considerata genitore pur non avendo un legame genetico con la bambina. Ma il giudice ha scritto una postilla, un elemento in questa sentenza dicendo: concedo l'adozione, ma il loro figlio deve frequentare anche ambienti eterosessuali per un equilibrio nella crescita. Ed ecco allora la polemica. Le due mamme dicono: è assurdo, nostra figlia già conosce tutti i tipi di famiglie. Insomma, questa vicenda che riporta alla luce la questione adozioni omosessuali eccetera la trovate sul Corriere e sulla Verità. Mentre il Corriere della Sera intervista il titolare del centro estetico di Asti, che ha fatto un annuncio cercando una lavorante, specificando così: cerco un estetista senza problemi di famiglia, non in sovrappeso, oltre 30 anni, senza problemi di orario e dal lunedì al venerdì, eccetera. E quindi Riccardo Bruno lo intervista e lui dice: che problema c'è? Se ha un figlio, la dipendente che vuole lavorare da me chiami una nurse, se ha i genitori malati li porti in una casa di riposo, mica possono non venire a lavorare perché devo assisterli. Ha chiesto anche una persona magra: siamo un centro dimagrimento, mica il cliente si può presentare una donna in sovrappeso. Insomma, difende questo suo annuncio da alcuni considerati un po' troppo esagerato. Va bene, dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali. Siamo sul secolo XIX. Giovanni Vaccaro racconta che la regina d'Olanda, che si chiama Maxima Zorreghieta Cerruti, ha origini di Varazze. Metà pagina. Ma chi se ne frega!